Siamo con la coreografa Silvana Barbarini per parlare dello spettacolo Uccidiamo il chiaro di luna, 1997-2015. Danze, voci, suoni del futurismo italiano in scena al Teatro Comunale di Casal Maggiore il 14 aprile prossimo. Silvana, benvenuta. Grazie. Ci racconti un po' di questo lavoro? Dunque, questo lavoro prende le mosse da uno scritto di Marinetti, il Manifesto della danza futurista. Marinetti descrive dettagliatamente tre danze, lo shrapnel, la mitragliatrice e l'aeroplano. E le descrive come assoli, sono una serie di azioni che una danzatrice deve compiere, e nell'immaginare una possibile messa in scena di queste danze che non furono mai realizzate in realtà, io le ho trasformate in pezzi di gruppo. E diciamo che l'origine di questo interesse verso il futurismo è più lontana e viene dal fatto che mentre frequentavo il DAMS e studiavo il futurismo, ho rispolverato l'esperienza della mia prima insegnante di danza, che è stata Giannina Sensi, un personaggio così della storia della danza italiana, che negli anni 30, cioè all'epoca del secondo futurismo, ha collaborato attivamente con Marinetti e con Franceschini, trovando nuovo linguaggio. 13 giovani interpreti della scuola, della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, ce ne parli un po'? Sì, questo progetto all'origine nacque nel 97 per una classe della Paolo Grassi e Marinella Guatterini, che ha commissionato questa ricostruzione all'interno del progetto Ricci, ricostruzioni coreografiche di lavori degli anni 80 e 90. Ha voluto che l'esperienza si riproducesse in condizioni analoghe e quindi anche questa volta è stata una classe intera a lavorare. Sono alcuni pezzi in cui i ragazzi hanno avuto un margine di libertà, per cui il loro contributo è stato fondamentale. Lo spettacolo è fatto di brani diversi, è una specie di corsa attraverso diversi temi e diversi soggetti. Così riguardano la macchina, il tema della macchina, altri il tema della guerra, e altri comunque sono incentrati su questo linguaggio che mi interessava particolarmente dell'estetica futurista, che è l'onomatopea. In velocità tocchiamo vari aspetti. C'è anche Cosa... una danza parlata. Una danza parlata, ecco, cosa avevi apprezzato del testo di base, delle indicazioni di base di questa cosa mai messa in scena? C'è una dimensione naif, concreta, c'è un certo umorismo anche nell'affrontare, c'è così la voglia anche di mettere insieme cose lontane, di avvicinare cose lontane, passando in velocità, la voglia così di portare nell'arte elementi della vita quotidiana, la voglia di far parlare le cose. Rispetto alle musiche... Rispetto alle musiche ci sono molti brani di intonarumori, che sono questi strumenti inventati da Russolo, delle macchine per produrre suoni rumori, per accompagnare così idealmente con un nuovo linguaggio musicale anche i nuovi gesti che dovevano nascere. E poi ci sono anche alcuni brani scritti da Marinetti che sono come brani di musica concreta, sono stati così poi realizzati da Daniele Lombardi. E poi Poi ci sono alcuni pezzi invece proprio musicali di Aldo Giuntini, di Casavola, pianoforte soprattutto, dei Foxtrot. Però direi che il protagonista sono gli intonarumori. Poi c'è anche molto silenzio. I rumori dal vivo, del palcoscenico. Ecco, a proposito di palcoscenico, la cura dei costumi e della scenografia. Mano di Luigi Grenna e Donatella Cazzola all'origine, con un contributo poi anche tecnici della Paolo Grassi, e sono stati realizzati in gomma piuma la maggior parte dei costumi, cioè non la maggior parte, alcuni fondamentali, e sono ispirati a dei disegni di balla che hanno a che fare con l'azione scenica ispirata alla tipografia e poi anche così, ad alcune altre sue idee, la primavera, così, riguardano soggetti invece più legati alla natura. Poi c'è una gonna a due posti in gomma piuma. E poi per il resto sono in realtà dei semplici vestiti. E le scene sono dei pannelli bianchi che si colorano di colori diversi e che in alcuni momenti si spostano. E allora ricordiamo lo spettacolo Uccidiamo il Chiaro di Luna 1997-2015, danze, voci, suoni del futurismo italiano in scena al Teatro Comunale di Casalmaggiore il prossimo 14 aprile. Un ringraziamento alla coreografa Silvana Barbarini, un in bocca al lupo, a risentirci alla prossima volta. Grazie mille, d'accordo.